Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, benvenuti a Nessun Luogo Lontano, il vostro appuntamento quotidiano per quest'estate con tutto ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati. In redazione, in regia, c'è Andrea Roccabella. Per porre domande o commenti, gli sms o i whatsapp sono al 349-238-6666, Twitter segnatelo nessunluogo24 oppure Giampaz, Facebook nessunluogolontano-radio24. Allora, come avete sentito anche dal GR, da ieri è allarme in Thailandia, parecchi attacchi in 8 province diverse, sentiamo le ultimissime, vi porto a Bangkok. Allora, mentre tentiamo di stabilire il difficoltoso collegamento con Bangkok, ci addentriamo su quella che è l'ipotesi sulle piste, cioè chi ha messo quegli svariati ordigni. Sembra che sono tutti rudimentali e quindi già questo sta indirizzando la polizia thailandese verso alcune piste. Abbiamo raggiunto Zakaria Abusa, che è professore al National War College di Washington, è un esperto di sicurezza nel sud-est asiatico. Proprio su questo tema lo abbiamo sollecitato, cioè qual è la pista più plausibile. Sentite. Penso che sulla catena di attentati sia molto più plausibile ipotizzare una pista interna. Non ci sono prove che gli attentati siano collegati a un gruppo esterno, che si tratti di ISIS, dei ribelli uiguri o dell'insorgenza islamista che scuote il sud della Thailandia e combatte da anni per l'indipendenza. È vero che questo gruppo piazza degli ordigni esplosivi con una certa regolarità, ma di fatto sono confinati nelle 3 province più meridionali del paese. E un attacco di questo genere andrebbe oltre le loro capacità logistiche e forse anche tecniche. A me sembra che questi attacchi siano diretti a screditare la giunta militare. Sono stati condotti nel giorno del compleanno della regina, che in Thailandia è festa nazionale, e non dimentichiamo che dopo il golpe di 2 anni fa il governo militare thailandese si è presentato come il difensore della monarchia. Inoltre gli attentati sono tutti avvenuti in luoghi turistici e il tallone d'Achille di questa giunta militare è proprio la stabilità dell'economia. Gli investimenti diretti esteri sono scesi e anche i sostenitori della giunta non sono affatto entusiasti di come i militari stiano gestendo la situazione economica. Ora, anche se si assemblano delle bombe non necessariamente costruite per uccidere e le si piazza in luoghi turistici, questo ha un vero impatto sull'economia thailandese, che per il 10% si regge sul turismo. La voce che avete sentito è quella del professor Zakaria Abusa, che insegna al National War College di Washington, è un esperto, come vi dicevo, di sicurezza nel sud-est asiatico. Ci sono un paio di punti fermi da tenere molto ben presenti per leggere questi attentati che in queste 2 giornate diverse hanno scosso la Thailandia. Uno è la Costituzione recentemente approvata. Se volete sapere di più, andatevi a risentire la puntata che abbiamo dedicato proprio a questo. La giunta militare ha, come dire, ha posto un suggello anche legislativo e costituzionale al suo potere, sostanzialmente si è garantita il diritto di eleggere il Senato, e quindi questo è un punto da tenere in considerazione. L'altro è la data di oggi, che è il compleanno della regina thailandese. E quindi questo potrebbe, come dire, spiegare anche il timing, la tempistica degli ultimissimi attentati. Allora, mentre Antonio Talia e Eleonora Aragona stanno cercando di raggiungere Bangkok, vi faccio sentire invece la voce di uno degli italiani, Andrea Tazzioli, rimasto ferito in uno degli attentati. Raffaella Calandra lo ha raggiunto da pochissimo. Sentite che cosa ha raccontato. Ci sono già stati anche in passato. Una volta era limitato quasi esclusivamente in centro, a Bangkok, nella capitale, o nell'estremo sud del paese. Adesso questo fenomeno sembra che si stia un pochettino espandendo. Diciamo che la verità è che sembrerebbe così, dal mio punto di vista, tutto un pochettino piuttosto artigianale. Cioè, mi capisca, non voglio certamente, è stata una tragedia, qualcuno è morto, però non voglio con questo sminuire, ma mi sembra che si è fatto un po' in stile thailandese, ecco. La polizia mi ha fatto vedere alcune fotografie di alcuni ordigni rilevati da loro. Francamente non sembrano opera di gruppi molto professionalmente, in maniera criminale, preparati. Questa è la mia idea. Quindi la polizia le ha mostrato dei possibili ordigni per chiederle se lei aveva notato qualcosa? Sì, esatto, perché loro in passato si vede che li hanno trovati, li hanno fotografati e mi hanno fatto vedere se per caso così avessi notato oggetti di questo tipo lungo la strada, ma assolutamente no, non ho notato niente di tutto questo. La testimonianza che avete appena sentito, raccolta da Raffaella Calandra, era di Andrea Tazzioli, che è uno degli italiani che è rimasto ferito. La località era Hua Hin, lui era al bar, pensate, stava festeggiando il suo 51esimo compleanno e per un caso quasi fortuito è riuscito a scampare appunto all'attentato. Pare sia stato chiamato dal cameriere un istante prima appunto della detonazione, questo gli avrebbe salvato la vita. È molto interessante quello che riferisce. Fra l'altro lui è stato, ha lavorato anche in Afghanistan, è un ex militare della Guardia di Finanza, per cui ha anche, come dire, una conoscenza, una competenza, magari non specifica sugli ordigni, ma quantomeno ha odorato da vicino l'ambiente militare, e riferisce di questa serie di ordigni improvvisati che gli sono stati mostrati dalla polizia thailandese, segno che quella pista lì comunque è quella che la polizia di Bangkok sta battendo. A Bangkok vi porto, dove c'è Alessandro Ursic, siamo riusciti a stabilire il collegamento. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Eccoci. Allora Alessandro, già alle 13 abbiamo tentato di stilare un bilancio, hai qualche notizia in più? Puoi ricapitolare il bilancio, quanti morti e quanti feriti al momento per questi attacchi? Il bilancio è sempre quello di stamattina, quindi 4 morti e feriti più lievi, quindi non credo che peggiorerà il bilancio, e da questa mattina sono stata da 11 ore non si sono verificate le nuove esplosioni. Ecco, purtroppo la linea è disturbatissima, proviamo ad andare avanti nella nostra chiacchierata. Alessandro, se no proviamo a ritelefonarti per vedere se la linea sarà migliore. La pista interna, ci diceva il professor Zaccaria Abuza, l'abbiamo raggiunto al National War College di Washington, la pista interna sembra quella più credibile. Che cosa dicono le fonti thailandesi da questo punto di vista? Spero che mi sentiate bene. Sì, sono due, ci sono. No, è caduta purtroppo. Riproviamoci, ma mi sa che oggi con Bangkok avremo dei problemi. Allora, vi faccio sentire ancora una volta, prima di introdurre il prossimo ospite, la voce di Zaccaria Abuza, perché c'è una domanda fondamentale. Allora, con la giunta militare ormai potere dopo il colpo di Stato da almeno 2 anni e quell'ultimo colpo di mano che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, apparentemente, un osservatore esterno potrebbe dire giunta militare, paese più stabile. No, dice Zaccaria Abuza, lo sentiamo. In apparenza la Thailandia sembra più stabile, ma guardando le cose più in profondità emerge senza dubbio il fatto che la società thailandese è ancora estremamente divisa e polarizzata. I militari stanno mantenendo questa stabilità attraverso misure molto coercitive e violazioni delle libertà personali e civili. Basta guardare al referendum sulla Costituzione che si è tenuto lo scorso fine settimana. I cittadini non erano autorizzati a fare campagna per il no. Le discussioni pubbliche sono state estremamente limitate e di fatto sui media non si è sentita o letta alcuna analisi precisa sul tema. Thank you. Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata agli eventi e agli attacchi, plurimi attacchi in Thailandia. L'avete sentito anche da Ursic, Alessandro Ursic, giornalista freelance di base a Bangkok. Il bilancio rimane quello di questa mattina, quindi di 4 morti. E pista interna, che è quella sempre più credibile, rivendicazioni non ce ne sono al momento. Un paio di fatti importanti: la nuova costituzione, di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, il compleanno della regina proprio quest'oggi. Do il mio buongiorno e mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Giuseppe Gabusi, docente di economia politica dell'Estremo Oriente all'Università di Torino ed è capo ricercatore del think tank TWAI, Torino World Affairs Institute. Professor Gabusi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, professore, iniziamo a, come dire, a sfrondare il campo da eventuali dubbi, se ci sono. Anche lei concorda sulla pista interna? Sì, mi sembra che sia un'analisi puntuale, anche quella che abbiamo appena sentito da Washington, e mi sembra che più passa il tempo e più si confermano appunto i sospetti, che si tratti di un forme di violenza dovute a motivi politici interni. Allora, ci riproviamo l'ultima volta. Alessandro Ursic da Bangkok, vediamo se ci senti. Se ci senti, volevo sapere se ci sono state rivendicazioni fino a questo momento o se per il momento gli autori di questi attacchi, multipli attacchi, tacciono tuttora. Non ci sono state rivendicazioni, dubito anche che ci saranno. Non è la prima volta che episodi di violenza in Thailandia non vengono rivendicati. Anzi, io sono qui da 8 anni e non sono mai stati rivendicati. La giunta militare, mi sentite? Sì, perfettamente stavolta. Ok, le due piste interne che avete già indicato appunto sono quella del separatismo islamico del sud e quella della pista interna politica, diciamo, dell'opposizione alla giunta militare. Diciamo che il governo, appunto la giunta militare a potere da 2 anni, punta verso la seconda ipotesi, quindi verso gli scontenti, verso il campo avverso, quello in sostanza fedele all'ex premier Thaksin Shinawatra. Chiaramente ci sono degli elementi che potrebbero far tendere verso questa ipotesi. Domenica scorsa c'è stato un referendum con cui è stata approvata una controversa costituzione fortemente voluta dai militari e che rafforza i militari al potere. Oggi in Thailandia è una giornata molto simbolica perché è il compleanno della regina Sirikit, che fa 84 anni ed è un compleanno importante, il settimo ciclo di 12 anni, che qui tende ad essere molto importante. La regina è considerata, mettiamola così, i militari attualmente al potere sono considerati molto vicini alla regina. È un gruppo di militari che veniva proprio dalla guardia personale della regina. Questo è un argomento tabù in Thailandia, quindi questa ipotesi non viene, diciamo, analizzata dai media locali, però se qualcuno avesse voluto lanciare un messaggio politico in questo paese, diciamo, la coincidenza tra il compleanno di oggi e il referendum di domenica scorsa era un'occasione propizia. Va ovviamente notato però che questa ipotesi fa anche molto comodo alla giunta militare, perché ovviamente trova il nemico interno che le fa comodo. Certo. In realtà la preoccupazione principale delle autorità in questo paese, l'ho notato anche in diversi altri episodi di violenza in passato, è rassicurare i turisti innanzitutto. Il turismo in questo paese porta 30 milioni, probabilmente 32 milioni di persone quest'anno, contribuisce al 10% del PIL. Il fatto che già alle 10:30 di questa mattina, quindi a neanche un'ora dall'ultima bomba, le autorità avessero già indetto una conferenza stampa in cui hanno escluso l'ipotesi terroristica, mi fa capire come il loro primo istinto sia quello di tranquillizzare. Non credo che in un'ora sia possibile raccogliere gli elementi necessari per passare questa conclusione. Chiarissimo. Alessandro Ursic, dalle tue fonti sul posto, come viene letta il fatto, stiamo parlando di un attacco più o meno coordinato, perché nell'arco di 48 ore comunque, insomma, è un paese grande, la Thailandia, 8 province diverse, comunque un attacco di questo tipo richiede, se non una logistica, un coordinamento, quantomeno a livello di comunicazione, e quindi una regia dietro che ha avuto una sua importanza. Quanto viene stressato questo aspetto dai media o dalle fonti militari? Beh, viene ovviamente enfatizzato, questo che fa pensare anche a un coordinamento per esempio dei separatisti islamici del sud. Il problema è che loro hanno mostrato questo tipo di coordinamento finora nelle loro 3-4 province al ridosso della Malesia, dove la minoranza musulmana in sostanza è maggioranza in quelle province. Fare una cosa del genere su scala nazionale sarebbe un'escalation diversa, secondo me anche poco probabile, perché appunto bisogna contare su persone fidate, qui parliamo di 7-8 province diverse, sarebbe un po' difficile, appunto alla fine non, diciamo, l'aspetto logistico non viene analizzato, veramente sviscerato dai media. I media, che sono nelle mani dell'elite di Bangkok, hanno ovviamente dato molta risonanza alle parole del premier Prayut, che in sostanza ha fatto capire che questi attacchi sono opera di quelli che non vogliono che il paese vada avanti, progredisca. In sostanza un'accusa indiretta appunto al campo politico avverso, come ho detto prima. Quindi è una risposta, anche diciamo la risposta della gente è molto di pancia, diciamo che c'è chi ha tracciato già le sue conclusioni, appunto dando la colpa al campo politico avverso, se sono persone che sono diciamo pro giunta militare, e dall'altra parte invece c'è ovviamente chi sospetta che sia la giunta militare a mettersi le bombe per mantenersi al potere. Purtroppo è un gioco delle parti già visto anche in altri episodi in passato. 10 anni fa, tra l'altro, la cosa curiosa è che il 31 dicembre del 2006 a Bangkok ci fu una serie di esplosioni molto simile, con un bilancio anche simile, 3 morti e 38 feriti, anche lì la situazione era simile, si veniva da un colpo di Stato contro Taksin, c'era già il problema del separatismo islamico, non ci furono rivendicazioni, non ci sono mai state dopo 10 anni, quindi tutte le ipotesi che stiamo facendo oggi su questi attacchi sono state fatte già 10 anni fa, su quegli attacchi a Bangkok, il che vi fa capire che probabilmente non ne sapremo granché neanche nei prossimi giorni. Sì, ahi noi, la storia che tragicamente si ripete. Grazie mille, Alessandro Ursic, giornalista indipendente in diretta da Bangkok, Thailandia. Grazie mille Alessandro, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Fatemi tornare dal professor Giuseppe Gabusi, che insegna economia politica dell'Estremo Oriente all'Università di Torino, fra l'altro è capo ricercatore di questo think tank che si chiama TWAI, Torino World Affairs Institute. Professor Gabusi, Alessandro Ursic diceva che l'industria del turismo ha un peso sul PIL, l'economia thailandese si basa per un 10% su questo importante introito. Certo che dopo tutta questa serie di attentati che sono andati a colpire luoghi turistici, per Bangkok insomma si mette veramente male, o mi sbaglio? Penso che ormai i turisti si siano anche un po' abituati a questo tipo di attacchi in giro per il mondo, e dopo sicuramente il primo periodo in cui ci sarà una riduzione sicuramente della presenza turistica, la storia ci dice che poi i turisti in effetti ritornano nei posti più belli anche dell'Asia orientale, ricordiamoci per esempio Bali, c'è un attentato pazzesco nel 2002 soprattutto contro che colpì fortemente appunto i turisti australiani. In realtà non mi risulta che la gente non vada più a Bali appunto perché ci sia la paura del terrorismo, del resto come vediamo il terrorismo ormai colpisce ovunque, quindi non ci sono posti completamente sicuri. E certo è che colpire il turismo in questi paesi significa dare un segnale molto forte dal punto di vista economico, e l'abbiamo sentito appunto adesso dal corrispondente a Bangkok, questo è evidente. Sì. Allora, vi ricordo il bilancio: 4 morti, 40 feriti, 8 province diverse attaccate nel giro di 48 ore, certamente è un segnale. D'altra parte, come dire, ad attenuare quelli che possono essere i timori, c'è il fatto che gli ordigni erano molto ragionalmente quasi tutti o tutti ordigni artigianali, il che limita i timori sulla potenza di questo di questo nemico, che certamente però, sentendo le parole di Alessandro Ursic, ha lanciato un messaggio molto molto chiaro alla giunta militare, che lo ricorda è da 2 anni al potere, che domenica scorsa ha approvato una nuova costituzione che sostanzialmente le permette di mettere una longa manus sul Senato, e oggi è il compleanno della regina, che è molto vicina agli ambienti militari. Prima di tornare da lei, professor Gabusa, ascoltiamo insieme un'ultima riflessione di un suo collega, che è Zaccaria Busa, che insegna al National War College di Washington, esperto di sicurezza nel sud-est asiatico, perché con lui Antonio Talia ha provato a mettere il grandangolo e insomma cercare di capire se c'è un filo rosso che lega alcuni dei paesi nel sud-est asiatico, perché lì la parola chiave sembra essere instabilità. Sentite. Sì, in tutto il sud-est asiatico la situazione è sempre più incerta e instabile. Basti pensare alla controversia in corso tra varie nazioni nel Mar Cinese meridionale. Inoltre, a livello interno, c'è instabilità nelle Filippine meridionali. A gennaio l'Indonesia è stata colpita da un attacco dell'ISIS e recentemente anche la Malesia è stata colpita da attentati per la prima volta nella sua storia. Insomma, nel sud-est asiatico le cose non stanno andando come tutti speravano che andassero, ma detto questo, si tratta pur sempre di economie molto dinamiche che si sono guadagnate un ruolo importante nell'economia globale, e tutte queste nazioni hanno affrontato minacce terroristiche in passato. I loro governi, alla fine, sono sempre riusciti a gestire con più o meno efficacia queste emergenze. Professor Gabuzzi, è d'accordo con l'analisi del suo collega di Washington? Esiste, come dire, mettere il grand'angolo e accomunare i paesi del sud-est asiatico ci aiuta a comprendere meglio cosa accade in Thailandia, o stiamo parlando comunque di specificità troppo diverse, quindi, come dire, metterle insieme non ci aiuta nella comprensione? No, sono d'accordo con il collega, sicuramente ci sono alcuni fil rouge, alcuni tratti comuni tra i paesi dell'area, a cominciare per esempio dalla forte presenza dei militari in politica e quindi dalla esistenza di democrazie sicuramente elettorali, che sono però più o meno fortemente condizionate da un apparato militare, dalle forze armate che sono abituate a intervenire in politica. In Thailandia assistiamo a un ritorno alla monarchia, a una monarchia militare. Teniamo presente che in Thailandia in 84 anni, dalla fine della monarchia assoluta nel 32, ci sono state una ventina di costituzioni e 13 colpi di Stato, quindi qui veramente non c'è nulla di nuovo. Se pensiamo per esempio alla presenza in Indonesia di un esercito molto, molto forte, molto potente, se pensiamo al Myanmar in cui ancora i militari, nonostante ci siano state appunto le elezioni del 2015, abbiano un forte potere, ecco che sicuramente siamo in presenza di stati in cui il disordine è causato da forti dinamiche sociali, economiche, anche di cambiamento, anche positive, pensioni devono essere in qualche misura tenute sotto controllo, e spesso i militari intervengono in politica proprio a difesa dell'ordine, della sicurezza, perché temono che la situazione possa sfuggire di mano. Ricordiamoci anche che molto spesso nell'Asia sudorientale stiamo parlando comunque di confini tra stati molto molto porosi, confini che sono eredità di fatto del periodo coloniale, in cui però sostanzialmente c'è un grande movimento di merci, di persone, di migranti, di traffici leciti e illeciti, che rende veramente complicata la situazione nell'area e provoca anche un certo movimento osmotico tra i diversi confini. Professor Gabuza, questo pugno di ferro di militari si traduce poi in stabilità politica? Mica tanto, questo lo stiamo iniziando a capire, ma è crescita economica? Io non credo che questi interventi dell'esercito siano espressione di una maggiore stabilità politica, al contrario sono espressione di una forte instabilità che evidentemente la serie di colpi di Stato, la serie di nuove costituzioni che sono state approvate in questi decenni non sono state risolte, sono situazioni evidentemente di instabilità che permangono, perché non è risolta la frattura sociale che c'è all'interno del paese, una frattura sociale tra sostanzialmente Bangkok, tra un'elite di professionisti, di burocrati, di militari che gode di un certo benessere, e soprattutto le campagne del nord, le campagne della regione nord-orientale che non a caso avevano votato per Thaksin Shinawatra, il premier che fu appunto deposto nel 2006 da un colpo di Stato dell'esercito. Pensiamo soltanto a questo dato: 3/4 della spesa pubblica del governo thailandese sono diretti a Bangkok, dove vive il 17% della popolazione, e infatti nell'ultimo anno è aumentato anche, per esempio, sono aumentati gli indici di disuguaglianza nel paese e sicuramente la crescita si è ridotta, e quindi ci sono dei problemi sociali che difficilmente un intervento costituzionale che prevede appunto un maggiore potere dell'esercito possa risolvere questi problemi, che sono problemi appunto sociali. Sì. Professor Gabuza, era interessante e allo stesso tempo allarmante quello che lei diceva prima, ma probabilmente ha ragione. I turisti, l'industria del turismo si abitua e viene assuefatta anche al rischio terrorismo, e lei in qualche modo smussava la mia tesi dicendo: vabbè, sì, ci sono stati attacchi in Thailandia, ma alla fine è successo anche a Bali, e le industrie turistiche più o meno si risollevano. Vuol dire che alla fine siamo destinati a riconcepire la nostra vita quotidiana anche in funzione del rischio terrorismo, e quindi anche le vacanze in funzione del rischio del terrorismo, in un certo senso lo vediamo già con la scomparsa dei turisti, per esempio, dal bacino orientale del Mediterraneo, dalla Turchia all'Egitto, e lo vediamo con il tutto esaurito in questi giorni, appunto, di vacanza nel nostro paese, nelle località. Evidentemente questo cambiamento dei comportamenti si è già verificato, però da qui a dire che scomparirà il turismo in Thailandia, questo non me lo sento di dirlo, perché evidentemente non sarà così. Ci sono anche ormai moltissimi turisti che non vengono dall'Occidente e che sono in grado di viaggiare un po' in tutto il mondo, se pensi appunto a tutta la classe media cinese, sì, dell'Asia orientale stessa, dall'Indonesia. Sì, sì, no, fra l'altro noi, sì, professore, spesso abbiamo anche una visione molto eurocentrica, quindi ci dimentichiamo che c'è tutto un altro pezzo di mondo che vive, insomma, e trae linfa vitale, dà linfa vitale appunto alla parte est del mondo. Ringrazio Giuseppe Gabusi, docente di economia politica dell'Estremo Oriente all'Università di Torino, lo ricordo, è anche capo ricercatore di TWAI, il Torino World Affairs Institute. Grazie mille, professor Gabusi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Allora, abbiamo parlato di ripercussioni economiche sulla Thailandia dopo questi attacchi, andiamo a sentire appunto l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. A gozare nel platanal de Bartolo. Allora, questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano era tutta dedicata ai tragici eventi in Thailandia. Adesso Andrea Roccabella ci fa capire che è ora di voltare pagina. Vediamo se indovinate dove vi porto adesso. 349-238-6666, avete 10 secondi, vediamo se ce la fate. Vabbè, vi do un indizio. C'è Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore, qua di fronte a me. E allora, là, insomma, qua è facile, forza. No, allora, scherzi a parte. Domani... Roberto Darini, intanto buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Ben ritrovato. Domani c'è un compleanno, c'è un anniversario particolare, 90 anni Fidel Castro. 90 anni di storia in cui l'isola Cuba, lì che vi sto portando in questa seconda pagina in Nessun Luogo, ha attraversato crisi storiche, cesure, cambiamenti epocali. Uno lo stiamo vivendo adesso, lo vivremo sempre più nei prossimi mesi, mentre Donald Trump in America tuona attacchi, insomma, che stanno facendo saltare sulla sedia giornalisti e analisti. Vedremo meglio come le due cose si legano, mentre c'è un progresso dell'emigrazione, pensate, dei cubani verso gli Stati Uniti. Proprio adesso che Cuba si apre c'è questo strano paradosso, e vi citerò alcuni dati. Questi 90 anni di Fidel Castro ci danno l'occasione per mostrarvi una fotografia di Cuba. Lo faremo anche grazie a un amico fotografo che ha fatto un bel lavoro appunto sull'isola. Roberto Darin, sarà una pagina con appunto un po' di paradossi e un po' di contraddizioni. 90 anni di Fidel Castro, una vittoria e una sconfitta. Una lo posso dire, me l'hai detto prima, la sconfitta fuori onda me l'hai già suggerita. Una vittoria. Beh, 90 anni intensi, questo è fuori discussione, quelli di Fidel Castro. Una sconfitta è quella di cui abbiamo parlato un secondo fa fuori onda, è quella relativa al doppio regime cambiario. Ci sono due monete a Cuba, il peso cubano con cui vengono pagati gli stipendi e le pensioni, che vale pochissimo, e il peso convertibile che ha un tasso di cambio sostanzialmente analogo all'euro, quindi è una moneta pesante. Sì. Sono entrambi in vigore queste due monete, quindi cosa significa? Che chi vive solo di pesos cubani ha un potere d'acquisto sostanzialmente inesistente, guadagna l'equivalente di 15 euro al mese e beneficia della libreta, che è una tessera annonaria con cui possono ricevere cibo gratuitamente. Sì. La vita è grama, è molto modesta di questi percettori di redditi bassi, lo ripetiamo. Chi invece gravita attorno al turismo, semplicemente con mestieri anche i più umili, anche solo di mance, anche solo di piccoli servizi che presta ai turisti, che possono sganciare un dollaro alla fine del mese, porta a casa 200-300 euro al mese o addirittura di più, che sconvolgono tutti gli equilibri sociali all'interno della società cubana, appunto. Sì. Ecco, questa è la grande contraddizione, quindi una società dove il principio egualitario di fatto viene a scemare, a sfilacciarsi proprio in virtù del fatto che chi vive attorno al dollaro guadagna di più e vive molto meglio, e chi no vive peggio. Questa è la sconfitta. La vittoria è che stiamo sempre parlando di un paese caraibico, e se noi facciamo un raffronto con altri paesi caraibici o centroamericani, Cuba, con il sistema scolastico gratuito, con il sistema sanitario gratuito, allora inevitabilmente qui Fidel Castro ha portato a casa un risultato ancora positivo. Si pensi al disastro di Haiti, si pensi a Salvador, certo, si pensi ad altri paesi centroamericani e caraibici dove la situazione è davvero devastante. Ecco, quindi un welfare che, nonostante abbia perso di smalto rispetto a 30, 40, 50 anni fa, è comunque ancora in vigore e garantisce la sussistenza, lo studio e la sanità gratuiti. Questa contraddizione, questa Cuba a due velocità, l'ha anche fotografata, lo dicevamo prima, un fotografo e un amico, Alessandro Gandolfi, fotogiornalista, fondatore dell'agenzia Parallelo Zero. Se volete vedere i suoi lavori andate sul sito dell'agenzia, lo posteremo tra poco sulla nostra pagina Facebook, perché a fronte di una larga fetta della popolazione cubana che è comunque in condizioni di indigenza, e i numeri sull'immigrazione che vi darò dopo verso gli Stati Uniti corroborano questa tesi, Alessandro Gandolfi è andato a caccia dei ricchi cubani. Sentite come li ha fotografati. Ma io ero stato a Cuba una quindicina di anni fa e sono tornato l'anno scorso in occasione appunto di un servizio. Volevo raccontare qualcosa di diverso, volevo raccontare la borghesia alta cubana, i ricchi cubani, insomma, un po' così un controsenso, eppure ci sono i ricchi, e l'ho trovata abbastanza cambiata, devo dirti. Ho in mente una foto, la foto di una festa di chiusura dell'anno scorso. C'era la 12ª Biennale d'Arte della Habana, una festa artistica molto bella, gallerie d'arte sparse tra tutta la città. Questa festa si tenne all'interno di una villa del Vedado ed era abbastanza, secondo me, metaforica, perché appunto all'interno di questa villa chiusa da alte mura c'erano cubani eleganti con i Rolex, bevevano birra, si divertivano, ed è un po' appunto una metafora, come dicevo prima, dell'isola di oggi. Cioè, nell'isola vive un'alta borghesia che si è arricchita in vari modi, anche leciti, non solo illeciti, ma che ovviamente vive in un mondo dorato, in una sorta di torre di cristallo dalla quale ovviamente non si vede la povertà nella quale vive in realtà gran parte della popolazione. Tieni conto che lo stipendio medio a Cuba credo sia attorno ai $20, $30 al mese, e c'è una borghesia alta, un'elite cubana che viaggia con Audi A5, A6, Rolex, iPhone, donne, l'ho visto io, con borse Hermès da migliaia di dollari, e che mandano i figli in collegi privati che costano qualcosa come $10,000 al mese, all'anno, scusami. Di questa Cuba a due velocità, un riflesso lo danno i dati, ve lo dicevo, sull'immigrazione cubana verso gli Stati Uniti. Siamo andati a spulciare una ricerca del Pew Research Center, curata da un ricercatore che si chiama Jens Manuel Krogstad. Da quando nel 2014 Obama ha ripristinato i rapporti diplomatici con Cuba, l'immigrazione è aumentata esponenzialmente. Ricordiamo che l'estate scorsa è stata riaperta l'ambasciata americana a Cuba dopo 54 anni di chiusura. Nel 2011 erano immigrati 7.759 cubani. Nei primi 10 mesi del 2014 il numero è più che triplicato. Erano entrati 24.278. Nei primi 10 mesi del 2015 è aumentato ulteriormente il numero, si è arrivati a quota 43.159. E nel 2016, fino adesso, sono entrati negli Stati Uniti 46.635 migranti cubani. Roberto Arin, inviato del Sole 24 Ore, conosce molto bene quella zona, conosce molto bene anche Cuba. Abbiamo sentito dalle parole del fotografo Gandolfi e da questi numeri che vi ho restituito una Cuba a due velocità. Questa da un lato forse è la grande sconfitta, no? 90 anni di Fidel, c'è una disparità, c'è una forbice. C'è un fantasma, una minaccia, non so bene come chiamarlo, insomma c'è un nemico forse all'orizzonte che si chiama Donald Trump. Quanto quell'elezione, se si arrivasse alle elezioni di Donald Trump, potrebbe andare a impattare sui rapporti Cuba-Stati Uniti e in che modo? Ecco, questo nessuno lo può dire ancora. Di certo è il congresso americano che dovrà votare e sancire l'abolizione dell'embargo. Quindi tecnicamente lui ha detto, non proprio lui ma il suo entourage ha detto che non si procederà in questo processo di disgelo nei confronti di Cuba, quindi tutto potrebbe succedere. In verità un dato confortante è che c'è una lobby economica prima che politica americana che è interessata a questo mercato non grandissimo, ma comunque di 11 milioni di consumatori, che sono gli abitanti di Cuba, che sono a 90 miglia dalla Florida. Quindi ecco, questo potrebbe far ben sperare. D'altra parte però Trump, per solleticare i suoi elettori, molti dei quali vengono dalla Florida, potrebbe, e comunque sono quelli più duri e quelli meno aperturisti, bene, allora potrebbe sì succedere che questi grandi passi avanti che sono stati fatti negli ultimi 2 anni vengano progressivamente a fermarsi. Ecco, questo è una minaccia e al tempo stesso un incubo, perché ormai questo disgelo parrebbe a tutti gli effetti avviato e lo stesso Obama ha fatto molto, non ha potuto fino ad ora cancellare l'embargo, come si diceva, perché questo aspetta solo il congresso, però lo ha aggirato sdoganando alcuni prodotti e quindi liberando dall'embargo alcune categorie merceologiche. Sì. Questo ha un significato politico importante. Certo. Allora, questo disgelo, questa apertura che vi stiamo raccontando, questo filo rosso comunque che lega da sempre Cuba nel bene e nel male agli Stati Uniti, potrebbe, ma dobbiamo mettere un grandissimo punto di domanda, essere interrotto dalla politica che per il momento verbalmente è super muscolare di Donald Trump, ci ha abituato a sparate insomma di altissimo livello, non livello politico perché quello insomma non mi sembra particolarmente sofisticato, però che hanno un'eco mediatica notevole. Vedremo che cosa accadrà. E poi c'è un aspetto che più, se volete, sentimentale, però voglio farti partecipare a questa parte, Roberto Darin. Alessandro Gandolfi, che è fotografo e ci ha fotografato quella alta borghesia cubana, io l'ho sollecitato e l'ho anche un po' provocato su un aspetto che è tutto iconografico e tutto dei fotografi, se vuoi. L'apertura di Cuba alla fine ha un rischio, che è andare a intaccare quella magia, quella sospensione, quell'atmosfera rarefatta che derivava proprio dalla chiusura di Cuba e che l'apertura con gli Stati Uniti potrebbe in qualche modo andare a contaminare. Badate bene, non sto facendo giudizi di valore, è certamente virtuosa l'apertura di Cuba, ma quella foto, quell'immagine così nostalgica, così legata e ferma agli anni 50 potrebbe essere rovinata. Sentiamo cosa dice Gandolfi e poi su questo ti sollecito, Roberto. Credo che viaggiando nell'isola, cosa che io non ho fatto perché mi sono concentrato sull'Havana, no, questa magia dei tropici, dell'esotico, resti anche della, come dire, una popolazione orgogliosa della propria appartenenza, viaggiando lungo il paese resti. A L'Avana però ovviamente i primi germi del cambiamento ci sono, ecco, il timore è che caduto quello che viene chiamato il muro di Berlino dei tropici, diciamo, caduto definitivamente il muro di Berlino dei tropici, L'Avana ritorni ad essere quella Monte Carlo che era prima della caduta di Batista, ecco, diciamo. Il dubbio è questo, cioè il timore è questo. Diventerà di nuovo una Monte Carlo, questa è una provocazione per te, Roberto Arin, però prima l'informazione sul traffico, poi mi rispondi. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, fra poco vi riporterò nel sud-est asiatico, ma ci siamo concessi una piccola parentesi per analizzare, in occasione dei 90 anni di Fidel Castro, la situazione dell'isola, l'apertura verso gli Stati Uniti, ormai lo sapete, un disgelo che va avanti ormai da, che è partito 2 anni fa e va avanti in maniera solida, ma sul quale un alt potrebbe essere apposto da Donald Trump nel caso in cui venisse eletto. Il suo entourage, ci spiegava Roberto Arin, avrebbe messo, secondo alcune dichiarazioni, un po' di punti fermi. Naturalmente noi tutti speriamo invece in un ristabilirsi dei rapporti, che è certamente virtuoso. Ma io avevo lanciato una provocazione ad Alessandro Gandolfo, fotogiornalista che ha lavorato a Cuba. L'apertura di Cuba forse andrà a contaminare quell'atmosfera rarefatta, ferma agli anni 50, che tanti fotografi e registi ha incantato. Non so se sei d'accordo, Roberto Darin. Assolutamente sì, sono d'accordo. Tutto potrà succedere, indietro non si torna, diciamo. Quindi è improbabile che L'Avana torni ad essere la capitale della mafia di Fulgencio Batista degli anni 50, questo no. Però è vero, il vicino di casa, gli Stati Uniti, è ingombrante, è un paese potente, un paese economicamente fortissimo, ed è un paese che nel bene e nel male esporta, oltre che le sue merci, anche i suoi valori. E quindi in effetti che Cuba subisca un processo di trasformazione evidente e ne stravolga in tempi brevi la sua caratteristica di paese magico e le atmosfere che tu ben descrivevi, e il fotografo Gandolfo altrettanto, è un rischio reale. Io ogni tanto dico agli amici: beh, andateci prima possibile, perché poi non sarà più la stessa. Ecco, questo naturalmente non vuol dire che gli errori e le progettualità sbagliate siano in qualche modo condonate. Degli errori sono stati fatti, certo. E quindi ora di certo si arriverà a una svolta progressiva, anche se comunque c'è chi dice che in questi 60 anni di rivoluzione l'identità cubana si sia rafforzata moltissimo e che comunque Cuba non possa diventare una repubblica delle banane come altri paesi tropicali o centroamericani. Grazie mille Roberto Arin per questa analisi, stavolta anche un po' più sentimentale, non solo economica e così strettamente giornalistica. Grazie Roberto, buona giornata e buon lavoro a lui. Adesso, come promesso, abbandoniamo per un attimo Cuba, l'isola magica, e torniamo nel sud-est asiatico. Nel sud-est asiatico, perché c'è una storia particolare, molto poco raccontata in realtà, come tutto il sud-est asiatico, sui media italiani, che mina gli equilibri dell'estremo oriente e che ha avuto un recente inquietante sviluppo. Sentite. Apparentemente sono solo un pugno di scogli disabitati, ma gli arcipelaghi contesi nel Mar Cinese meridionale, come le isole Spratly o le Paracel, sono ricchi di risorse energetiche e rivestono un'importanza cruciale per le rotte commerciali della pesca. Ecco perché da anni si trovano al centro di una complessa controversia che vede opposti Cina, Vietnam, Taiwan, Filippine, Malaysia e Sultanato del Brunei. Fin dal 2009, con la consegna all'ONU di una mappa che contiene le sue rivendicazioni territoriali, Pechino ha affermato la sua sovranità sull'80% delle acque del Mar Cinese meridionale, innescando una reazione a catena a base di rappresaglie diplomatiche e incidenti navali. In questa contesa, uno degli avversari più fieri della Cina è senza dubbio il Vietnam. Il 13 maggio 2014, ad esempio, una folla di vietnamiti inferociti ha assaltato fabbriche e uffici di proprietà cinese dopo uno scontro in mare aperto tra navi delle rispettive guardie costiere, nel quale erano rimaste ferite circa 100 persone. La questione si sta militarizzando a velocità impressionante. A febbraio Pechino ha schierato missili terra-aria su uno degli isolotti contesi e adesso è il turno del Vietnam. Secondo quanto dichiarato ieri alla Reuters da numerosi diplomatici e militari, Hanoi ha rinforzato alcune isole sotto il suo controllo con numerose batterie di lanciamissili. Questo, in sintesi, si fa per dire, insomma, questo complesso risico che è militare ma anche economico nel sud-est asiatico, che cosa sta accadendo e con quali conseguenze? Lo chiediamo a Simone Pieranni, il Manifesto e fondatore anche di China Files. Simone, buona giornata, benvenuto nel Sul Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Simone Pirani si occupa in particolare di quelle zone. Aiutaci a capire meglio che cosa sta accadendo e soprattutto quali conseguenze si possono avere in una zona in cui si stanno schierando armamenti, ma dove c'è un traffico commerciale elevatissimo. Sì, è chiaro che questo ultimo atto del Vietnam, che è uno dei più rilevanti, come ricordavate voi nella presentazione dell'argomento, anche se il Vietnam ha ritenuto questo report uscito dall'agenzia Reuters come inaccurato, ma non è né un sì né un no, e sembra che i missili non siano ancora stati, diciamo, trasportati poi effettivamente nelle basi, i missili tra l'altro di recente acquisto da Israele. È chiaro che la situazione nel sud-est, nel Mar Cinese meridionale, dove appunto questi isolotti sono contesi tra tutti gli stati sostanzialmente che si affacciano lì, tra rotte commerciali, atolli creati artificialmente, le navi da guerra che girano in queste acque creando costantemente problematiche di tipo diplomatico. Di recente proprio il Giappone ha convocato l'ambasciatore cinese per uno sconfinamento nelle proprie acque di una nave cinese. La giustificazione di Pechino è stata: cercavamo dei pesci molto grossi, quindi per capire anche in che dimensione di scontro, diciamo, dialettico siamo. Chiaramente questo fa sì che aumenti cosa? Il rischio di incidenti, fondamentalmente, no? Perché non ci sono solo le potenze asiatiche, dove in particolare abbiamo la Cina che utilizza sostanzialmente quell'area come il proprio giardino di casa, storicamente l'ha sempre fatto, e naturalmente poi c'è il Vietnam, che non è a caso è uno dei rivali più acerrimi in questo momento della Cina anche a livello di ASEAN, dove invece ad esempio Laos e Cambogia sembrano essere più vicini alla Cina a causa di ingenti investimenti di Pechino, sì, in quelle zone. E poi naturalmente ci sono gli Stati Uniti che hanno spinto moltissimo per il riconoscimento di quelle acque come acque internazionali. Tra l'altro di recente una sentenza della Corte Internazionale dell'AIA ha sostanzialmente stabilito questo, ma non è vincolante, quindi la Cina ha definita carta straccia, quindi siamo di nuovo da capo. Ed è chiaro che le tensioni di quell'area creano effettivamente la possibilità di un incidente che può naturalmente avere delle conseguenze molto gravi. Alcuni analisti, come ad esempio Kaplan, che è questo professore della Washington University, che ha scritto proprio un libro su questo, che si intitola Asia Scaldron, proprio come il sud-est, come il mare cinese del sud ormai non sia più stabile, ritiene che lì proprio possa, diciamo, avvenire un evento pericoloso proprio per gli equilibri dell'area, ma non solo, perché ovviamente certo, abbiamo delle potenze non da poco, perché Cina, Giappone, Vietnam e Stati Uniti sono i paesi che più di tutti in questo momento spingono per la proprietà di alcune isole. Certo. Simone Pirani, redazione esteri del Manifesto, ma anche fondatore di China Files, c'è un paradosso, quantomeno è utile porre l'attenzione su un paese, in particolare di quelli che hai citato, è che il Vietnam, per la sua storia ovviamente tutti la ricorderanno, adesso è amico degli Stati Uniti, adesso, però è nemico della Cina, e a volte la storia è capace di paradossi incredibili. Che ruolo gioca in particolare il Vietnam in questa contesa? Io sono stato tra l'altro nel 2012, proprio quando a seguito di un incidente navale ci furono proteste fortissime contro la Cina di fronte al consolato, di fronte alle ambasciate cinesi. Il Vietnam, come sappiamo, si considera fratello della Cina per storia, addirittura una parte del suo territorio aveva fatto parte anche dell'impero cinese, oggi viene letto in fase, in chiave, diciamo, nazionalistica, proprio come a sottolineare gli usurpatori cinesi. Ma ci sono moltissimi elementi in comune tra Cina e Vietnam, non solo il fatto che c'è un partito comunista in entrambi i paesi che di fatto controlla e governa la società, ma anche un tipo di economia, tanto che il Vietnam viene definita la piccola Cina. Però il Vietnam ultimamente ha avuto un aumento, diciamo, del nazionalismo dovuto anche proprio alla natura che oggi ha il paese. Parliamo di un paese che ha la maggioranza della popolazione inferiore ai 29 anni ed è governata da ultra settantenni. È un paese in rapida espansione e che ha quindi, diciamo, strati che cominciano a essere cittadini, diciamo, vicino a quella che potremmo definire la middle class, che cominciano a richiedere un ruolo più importante anche nei confronti di un vicino che è sempre stato visto appunto come un vicino scomodo, che è propriamente la Cina. Chiaro. Quindi in questo momento il paese più fortemente organizzato, diciamo, per contrastare la Cina nel Mar Cinese del Sud. Insomma, il riflesso lo abbiamo sentito anche grazie al tuo racconto. Grazie mille ancora una volta. Simone Pirani, redazione esteri del Manifesto, fondatore di China Files. Simone, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. Allora, non ci sono aggiornamenti sul bilancio dalla Thailandia. Allora, a questo punto abbiamo un minutello, lanciamo i titoli di coda. con i quali ringrazio Eleonora Aragona, Silvia Malnati, Antonio Tali in redazione a confezionare con me questo giro del mondo anche questa settimana di Nessun Luogo Lontano, Andrea Roccabella in regia, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento col meglio della settimana è per domattina ore 9, il Ferragosto il 15 puntata speciale, ma non vi anticipo nulla, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano a partire dalle ore 16 di martedì. Un buon weekend intanto e un saluto da Giampaolo Musumeci.